Stavo giusto. Stavo controllando meticolosamente la nave. Quando a un certo punto una cosa ha attirato l'attenzione al di là delle dune. L'ho guardata per un istante e subito dopo era comparsa la scritta. Cosa poteva essere? Sono stato io. Sentite? L'erede di Sapreverde. La voce no. Venire dall'alto. Che diavolo. E come cosa? Quando alzate lo sguardo, vedete il fantasma di mio. Il Haberton. Umano che io ci ho creduto per un po', ma... il suo fantasma. Seriamente? Io voglio il mio fantasma. Dove è Cervantes? No? Siamo tutti morti. Il cemento scende. Tu di sicuro. Giusta osservazione. Non siamo altro che spiriti condannati a viaggiare in questo inferno di deserto. Scusa, ma tu cosa ci fai? Dove l'hai presa la vernice rossa? Infatti, tra l'altro. Sembrano queste domande da fare. Sì, quindi rispondici. Da dove arrivi? Cosa ne sai? Io non sono cucita, quindi... Non c'è tempo. Perché ci dici queste cose? Perché anche voi dovete riconoscere la vostra condizione. Dovete capirlo. Voi siete morti, come me. No, beh, calmo. Ti sposti rapidamente, segui la velocità della nave. Sì. Bravo. No, ma fantasmi non è che. Cioè, si fluttuano, ma possono. Sono come gli uccelli, no? Si mettono. Sì, esatto. Stanno. Ok. Stallo, ok. Ma tipo, spiegarcelo meglio invece che dire. Non mi sembra fantasmicamente. Non c'è niente da spiegare, è così e basta. Ma io ora accettate questa cosa. Bene, il discorso mi sembra che torno a letto. Non scherzo, non torno a letto. E provate che avete capito. No, cosa hai detto? Che dobbiamo suicidarci? Togliete la botta, toglietevi. Quella che credete sia ancora la vostra vita. È l'unico modo che avete per rompere questo incantesimo. Mi tiro un pizzicotto al massimo. Cioè, ok, io... Se non volete riconoscere questa condizione, sguaia la spada e la pistola. Anzi, no, scusate, lascia e la pistola, perché lui non lascia una mano e una pistola. Allora dovrò forse farvela riconoscere io. E dietro di lui compaiono 8 Wright. No. Oh, madonna! Io con cioè, il TS per... danno caratteristica di questi, non so come li uno. Non ce l'aveva detto nessuno. Mentre che era psicopatico, però io avevo immaginato io vorrei chiamare quella sono io Junkesh, ecco, non è il tempo, come vedi che stai per correre a chiamare, si tira l'iniziativa 27. Decido di suicidarmi. Cazzo, ho fatto 20. Ho sprecato 20. Ci credo e uccido. Ben uno. Un attimo che a cui sono mosso. Dai, 15 più 6, 21. 21 anch'io, però mi sa che vai prima tu. Io ho fatto un ben 8 in totale. Prendi un cosa serve quello? No, prendi un fazzoletto. Perché? Per quello, no, sì. Ah no, forse If you understand. Che ce l'avevano detto che era psicopatico questo tipo, ragazzi. Io. Cancello? Sì, puoi cancellare. Regà, ho sprecato un 20. Quant'è che sono in iniziativa? 6. Sì, vai avanti tu. Ah, pensavo che andassi tu. No. Adesso mi aspetto quel corvo di ca. I morti non parlano. Non avevo fatto caso. Ah, io tiro anche per lui. Sì. Non avevo fatto caso che l'archetipo che ho scelto mi viene tolto l'incantesimo al giorno. Eh sì, minchia, non hai fatto caso, l'unica cosa negativa. L'avevo anche segnato e non mi ricordavo. È l'unica cosa negativa che ha. 9, quindi più 5. Ma quindi volano, 14. Scusate, vero? Stanno volando. Eh sì, sono fantasmi come lui. Non benissimo. Volano, i rat? Certo. Okay. Cioè, ok, mica tanto. Stanno fluttuando davanti a voi. Quindi... Lui 14, io 8. Un attimo che devo pigliare le schede. Già 8 rat. Sì. No, niente, sono i meccanismi in questi, sto decidendo cosa fare. Ah, comunque anche il Haberton che cioè, senso, è un po' luminescente, c'è anche un bel templetino di terze parti che sono un po' sciroccato. Cos'è che è? Però è un po' nerfato. Non ho capito niente. Anch'io. Lui ha capito. Comunque. Templetino di terze parti. Template sono dei set di aumenti di caratteristiche, di abilità. Che mette i mostri. Fatto che le cose di terze parti sono tutte sgravissime. Terze parti sono. Che non l'ha fatto. Perché tutto questo materiale che noi usiamo l'ha fatto la Paizo, che è quella che ha fatto Pathfinder. Poi secondo me è un materiale che può usare chiunque. Chiunque può farci su altri regolamenti, no? Ah, ok. Ci sono altre ditte che però non sanno per convenire, probabilmente fanno cose meno bilanciate. Però sì, non si sa bene perché, non sono proprio bene capaci. Alcune vengono bene, ma la maggior parte no. Manzomma, sì, infatti. Quindi iniziative, dai. E 21, comincia lei. Allora, prima lei. 21. Posso fare una prova per... mi pare che siano immuni a Mind Effect. Sai che io non capirò mai dove va l'H nel tuo nome, vero? Avraham. Ormai ho scritto la prova di me. Avraham. Senti, posso fare una prova per di conoscenze, religioni? Pare che siano immuni a Mind Effect, una roba del genere. Sì. Sì, puoi farla. Scusa, tiro proprio... Due. Quanto è totale? 14. Beh, allora è una conoscenza molto comune, perché sono non morti. Non morti sono tutti immuni a Mind Effect, quindi anche uno solo 14, okay. Lo sai, perché non è una roba che riguarda solo loro, quindi basta che lo sai su uno scheletro. Sì, diciamo, esatto. Ma Mind Effect sono tipo No, sono tipo robe tipo suggestion, cose mentali. Tanto beh, meno male, visto che non sono... Allora, dicevamo, poi tu, iniziativa. 8. Aspetta che can... 8. In totale. 27. Damasco. Sommo 7, ho fatto 8. Minchia. Poverino. 7. Si dà di già mi sta sul cazzo. Ho fatto un 2 o un 1. Eleni. 21. Baka ha fatto 14. Baka 14. Io la tiro per loro. 4 più 28. Non so neanche se. Dopo vi dirò perché. Senti, ma non, ovviamente. Perché egli ha battuto in iniziativa, lo dico dopo. Perché ha fatto un 20. No. Ma senti, ma ovviamente con 14 non so se vedono l'invisibilità true seeing. No. Ah, ci mancherebbe. Cioè, sui write, aspetta. Per i write dico. Devo vedere un attimo quanto è la DC. Ma se no posso fare una prova di spellcraft per capire se c'è. Rewrite con 14? No, non lo sai. Che sfiga, minchia. Ma però puoi fare il tiro su Hail Aberton per capire che cos'è esattamente. No. Una prova di. Per capire cos'è è quello che sa fare più o meno. Una prova di? Per i non morti pare sia knowledge e religion. Sì, hanno armi. Hail Aberton sì, loro. 22. No. 22. Che arma? Non basta. Di pochissimo. Cosa io vuoi? Tutte e due sotto uno, quello che devi fare. Ma invece posso fare una prova di spellcraft per vedere se hanno true seeing? Ah, okay. Quello sì. Ah, dai, stavolta ho fatto alto 20. Cioè, non è proprio. Dovresti fare una. Penso che dovresti fare Detect Magic per vedere una cosa del genere. Comunque, non puoi vederla dopo. Devi avere il suo arcane sight oppure. Non puoi farlo tutto in effetti. Ho fatto alto, vaffanculo. Tiri di merda. Allora, tu devi riuscire a fare un attacco touch in mischia. Che fortuna. Un D6 poi. Mi disegno. Aspetta, che qua metto. Ah, praticamente hai un D6. Cosa è il right? Scusa. Di danno per cos'è due caster levels, massimo 10 di 6. Ok, madonna, sono i sotti di fantasmi. Quanti sono? 8. Prendi temporaneamente degli hit points, ragazzi, 5 più Werinbert uguali al danno che fai. Il questa cosa non l'avevo capito. Poi così lo faccio anche vedere, visto che ce l'ho qua. Poi tu puoi avere anche qua. Ah, bellissimo, che figo. Possiamo guardare. Sì, per lui non c'è problema per le statistiche. Comunque un magus. Soggetto che... corrente. Ah, che è figo! Il point del soggetto corrente. Grande. During combat cos'è che fa? Ah, è un Elbridge Shion con la carisma. Sì. E fa anche. Cos'è che faceva? Ah, sì. Ci siamo, direi 29. Tiro salvezza tempo. Più ho due. Più ho due verso Poison Spells e SLA. Sì. E tiro. Non hai, non hai quel più due. Non Supernatural. Dici che non sarà dentro la tagliata. Però, beh. Allora, per Bacca. Comunque, era anche 12 più 11, 23. Passato. O Frostbite. Cazzo, però. È Frostbite. Gioca basso un po'. Credo che riduca un po'. Gioca basso un po' di cibo. Però, beh, vediamo quello. Ok, comunque, prima di agire è lui che avanza verso... Lo stronzo? Sì. Figlio di puttana, bastardo. Sì, esattamente. Merdaio, figlio di merda. Pirata. Sì. Cane. Sì. Ok. Che vi ha battuto tutti l'iniziativa. Come ha fatto a batterci l'iniziativa? Che avrà qualche super califico. No, e resta dov'è. Ma quindi già non ci abbiamo le armi in mano? Sì, sì. Sì. Le avete state quando avete visto... Se prende un Natural 20... No. Resta lì. E spara con la sua pistola a Avram. Tu. Che è lì davanti. Preso. A Avram e basta. Che è stato un mago. Eh sì. Ah, sono tutti compatti. Cazzo, non posso prendere. No, non l'ho preso, cazzo. Colpisce una 30. Colpito. Quanta GA deve avere? Quanta 20? No, di 8. Sarà un di 8. Qua c'è un dado da 8. Morre qua. No. Non serve più, non serve più. Ma voi non avete controllato l'equipaggiamento di Labert dopo che era morto? Non sapete cosa fate. Scusa, è sparito dopo che era morto? No, ha detto che spariva. Sì, se non era. Allora ve lo lascia questo, l'equipaggiamento di Laverton. Ok. Non mi ricordavo, dicevo, ma vabbè. Mica era sparito. Sì, sì, sì, no, avevo detto che spariva perché volevo farlo ricomparire così, però si vede che capite delle settimane. Comunque, sì. Ok, prendi. No, che stolto. Vabbè, sì, comunque. Ok, prendi. Tutto. 1 billion 3 ma l'ha messo da lì, ma sto tizio, non mi ricordo. 100,000 alla fine non l'avevo messo perché. Cioè, perché non ci stanno quei talenti. No, ho preso soltanto 8 danni, dai. Più tiro salvezza morte. No, perché quello è soltanto. Cioè, però. Ah, perché tu sei fuori, non sei ancora scosso, quindi. Ah. E non hanno fatto furtivo. Perché non fai furtivo? Meno male. Perché ecco perché non ho messo lì, perché lui deve fare danni con i furtivi. Però finché non sei scosso non può fare Shatter Defense, quelle robe lì. In effetti potrebbe attaccare, quindi attacca K che è scosso anche lui, su cui lui fa... Fai il secondo attacco? Sì. No, facciamo che era questo. Ho sbagliato perché la sua tattica è attaccare quelli scossi, però vabbè. Quindi? Non so se lo cambio, faccio che ha attaccato subito come Baka. Vuoi, decidi tu. Baka o K? Baka. Considera quanto sia... Ah no, K scusa che non ha... Cioè su Baka c'ha, potrebbe avere qua. No beh non è vero, c'ha tutta la visuale anche libera su Baka. Su Baka perché sa che ha distrutto tutte le cose, quindi sì, su Baka. Cioè, nel senso, lo ritiene più pericoloso. Per ora. Quindi sì dai, facciamo che ha fatto subito su Baka. Quindi col primo attacco gli fa uno Shatter Defense. Cosa no. E quindi diventa vulnerabile, cioè diventa flat footed per. In pratica lui è scosso. E quindi gli fa un furtivo. Se gli fai danni. Se gli fa danni mentre è scosso, impreparato, sì. Lui è flat footed contro i suoi attacchi. Cosa vuol dire? Ok, impreparato e quindi prendi danni da furtivo. Il secondo attacco quindi è un attacco furtivo. Sono un 100 billion trino. No, ma va. Successo. Dai, non è così forte. Sono solo 5. Esatto, sono 5. Secondo attacco minaccia di critico con un 20. Ok, sì, forse saranno billions of billions perché... Un cestione di 6. No, vabbè, non si moltiplicano con il time, non è così grave. Ah. Confermato con un altro 20. Mi piace questo dato. Ah. Comunque. È il mio? Sono... No. I danni sono 6. E 1, 7 più 2... Allora, scusate, 6, 7 e 4 11 e 3, il Barbaro c'ha la super resistenza alzata più 4 18. Il Barbaro non è ancora in ira, infatti per quello dicono non ce 18 l'ha. 18 danni a lui, sì. non è un critico, aspetta, poi ci sono i danni a furtivo, comunque no, non fa tanti danni sul critico lui. Ma i danni a freddo se non sbaglio, no? sì meno 18 10, 14 e 7, 21. Altri 21. Madonna.

molta distanza. Va bene. Credo dopo Damasco. Aspetta, ma scusa. Cioè, tocca a lei, però. Vabbè, ma io ho tre colpi. Faccio passare lui. No, sei mosso. Giusto, che coglione. Tocca a A lei. Però direi che può posticipare dopo di me. Posticipa poi lui? Allora, Avram. Anche perché io ho lo stesso problema. Chissà un bright di quanto si muove. Tu, se vuoi, puoi vedere che le sue armi non sono incantate. E fare una prova di... No, l'hai già fatta su non morti, no? In generale. Fai so. Un'altra prova di conoscenza e religione. Io? Ok. Quindi sai che no. Essendo creature incorporee, sono immune a tutto ciò che non è magico. Non è magico, certo. Ecco. Quindi lei è completamente inutile. Inutile. E anche io. No, tu sono arco incantato. Immuni a tutto ciò che non è magico. Il mio arco incantato, cioè, non le mie frecce. Mi spiace. Così però. Vabbè, mi metto indietro, ragazzi. Vado sulla torre di vedetta. Il mio arco incantato. Vabbè, magari quello. Anche se le mie frecce sono incantate, però se sì, sì. Beh, su questo, questo è un grave problema. Faccio un bel haste. Sì, quello ve lo faccio sicuramente. Sto funderando altre cose. E quindi anche Bacca cosa fa? E niente. Ma questi a che altezza volano, scusa? Sono no, per ora sono per terra. Ah, ok. Senti, per ora mi limito a ciò. Ma sì, Iolo. Iolo. Ah, bravo, che gliel'ho data. Io non c'ho qualcosa che colpisce in fila. Werenberg, dico. Qualcosa che colpisce in fila. No. Cioè esiste un talento. Cazzo. Dopo tanto. Tanti dopo non c'è niente di vincolante, puoi prendere anche le cose più stifose. I Brights mi ricordo che sono super pericolosi, lo so. No. Lo so. No. Sono pericolosi. Poi non sono pericolosi. Io ho sciolto quello che c'è davanti. Vabbè, super per l'epoca. Senti, facciamo così. Iolo. Comincio. Summon Monster 6. Con la mia full round. Ma perché hai fatto ritardare lei allora se non fai... Perché faccio haste. Sodoma! Ah, ok. Fai haste. Io faccio... Con un full round faccio... Maledetto corvaccio, dice. E con la mia swift action... La no, aspetta. Aspetta. Sì, con la mia full round evoco un... Cioè, non evoco niente, comincio. Faccio haste. E con la mia swift action che ho ancora faccio vanish. Ci provo, sempre una difesa in più con una swift action. Giusto, bravo. Perché sennò te l'avrebbero attaccato questo round qua. Perfetto. Ah, quindi deduco che non vedono. Ok. E questo è, basta. Quindi avete tutti più uno a tiro per colpire, più uno alla CA. E vabbè, poi un attacco in più, ma quello non è cosa forte. Ok. Ah, avete no. Un attacco in più. L'ho visto. Se fate, se non vi muovete ovviamente. Chiaro. Ok. E basta, io ho finito. Ok. Tocca a Eleni allora. Cioè, possiamo fare che prima ho lanciato Danilo, possiamo fare che prima ho lanciato Vanish e poi ho cominciato a castare. Ah, giusto, bravo. Metti, no? Va bene, sì, sì. Quindi noi abbiamo tutte e due più, meno due per colpire e meno due alla CA. D'altronde sì, vai per entrare prima o no, poi. No, CA no, meno due per colpire e meno due TS. Quindi non posso. Ah, ti salvezza, ok. Posso avvicinarmi. Allora, ho detto. Ah, sì, ok, vai, cosa fai? Io direi che cioè, ti dovrai pure avvicinare. Mi avvicino. Cioè, vai addosso. No, non so perché poi ti viene accerchiata. Quindi non hai qualche buff da lanciarti molto forte, robe tipo che ti rende fortissimo, bapaua. Tu lanci di che livello, scusa? Terzo, mi quarto. Pare. Quarto? Me l'hai detto tu. No, non lo so io. No, mi hai detto... A livello 12 carti già di quarto. Figo. Se lanci di quarto... Sì, due terzi cast. E ho... Bird of Speed. Burst of Speed. Ah, ma non ho tirato per me. Anche quello di terzo. Poi dimmi un po' in che hai tirato basso, meno male. Fiotto acido. Di dal terzo due. Di terzo e di quarto. Insomma, tanto, insomma, 23 iniziativa lui. No. Sì, Team Trail, Vampiric Touch, mm-hmm. Black Tentacle. Ah, buono. Invisibility Greater. Sì, ma Black Tentacle non so se funziona. Contro di loro sono incorporei. Ma se, però, se io dovessi avvicinare, ma sono invisibile, devo fare per forza il tiro salvezza tempo. Dimension Dore e Adjustable Polymorph.

colpo di grazia, solo grazie al fatto che i suoi bralani sono intercorsi, sono raggiunti per salvarlo con broccambolesche situazioni e salvataggi all'ultimo minuto. Insomma, molto, molto emozionante, però non c'era abbastanza memoria sul disco, sul registratore, quindi tutto ciò è quello che resta, il mio goffo racconto, la mia goffa ricostruzione. E niente, torniamo alla riattivazione del registratore per pochi minuti prima della fine della sessione. Il fantasma scompare. Il fantasma scompare lasciando giù l'equipaggio. Chi che ha fatto grid? Slash roll. E lascia giù. Che cosa lascia giù? Chi se lo segna? Me lo segno io. Una belt of incredible dexterity. Oh, guarda, c'è più due. Minchia. Ah, più due. Più due? Io quanto ho? Più due. Cioè, più due. Io ce l'ho già. Aspetta, scusa. Una bellissima. Non sono pronto. Perché lo scrivo io intanto? No. Intanto non sono pronto adesso. Ok. Allora, quindi, belt of incredible dexterity. Of dex. Yes. Più due. Okay. Masterwork padded armor, che è una merda, che non è casa. Cos'è che? Un'armatura di pelle. Io non ce l'ho, mi servirebbe. No, perché perdi bonus. Ma se è un'armatura di pelle, è una giacchetta. Beh, io la metto qui e gli spicci. Vabbè, al massimo la, appunto, la vendiamo. Cioè, poi un'ascia alla mano NX, vediamo, sarebbe NX più uno. Magari lo riusciamo a vendere a qualcuno. A carnivora. Un'ascia alla mano più uno. Alla carnivora magari la pelle gli piace. Poi 589 monete d'oro. Questo è un giamino. Quanto? 589 solo? Sì. Che braccino sto qua, è un po' veraggio. Siete per l'equip, sto pirata. È un po' veraggio. E una più uno Sky Pistol. Questa è mia. No, è mia. No, è che mia. Che fai tu? Succede? Perché devi aiutare lei? È mia. Che se la compra? Sì, no, se ovviamente devi comprare dall'equip del gruppo, ma cioè, tu devi sempre farci vedere. Una Sky Pistol. Okay. Esatto. Sì, gratis, ma... Ah, ok. Sì. Infatti devo dire perché se sei andato gratis. No, però se la prenderà. Cioè, la conosco da due giorni. No. Mi deve già. Anzi, probabilmente giù mi dirà. Non devo che cosa? Non ti devo niente. Mi ruba già gli egg. Giallustro. Cosa fa questa più uno Sky Pistol? Beh, l'hai già notato da come la usavo. Ma in pratica non ha bisogno di essere ricaricata in nessun modo. Ok, ma io anch'io ho bisogno di ricaricare quello che ho. Però questa non ha bisogno di più talenti. Si pensa, visto che io ho trovato questa cosa interessante che esiste, cioè, di ritrenarlo, dici? Consiglio di ritrenare qualcosina. Di? Ma adesso? Dopo quando? Aspetti una settimana. Cosa vuol dire ritrenare? Che scambi talenti vecchi. Sì, no, ma dico, lo posso fare ora nel caso o lo faccio? No, lo puoi fare anche adesso, cioè, però devi aspettare una quando? Cioè, una settimana di allenamento, sono bene, sarà. Vabbè. Nel breve. Perché okay, esiste questa, cioè in teoria esiste, è una pistola speciale, si chiama Pistol of Infinite Sky, una roba del genere, no? Che ha questa abilità qua, però è anche più 5. Se guardi però, cioè il costo è esattamente come se quell'abilità gli fosse un più 1. Ho capito. È un'abilità più 1. Io quando è che come sono un po' stretto con i soldi, ho detto vabbè queste cose qua giusto possono anche esistere. Quando è che recuperi i key points? Quando dormi, quando ti svegli. Dai, boh, andiamo via. Stupido. Grazie. Figurati. Anche se siamo a metà sessione, ma comunque. Madonna, vedi che questo scontro qua. Disagio.